ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il Covid naturalmente ha rivoluzionato tra l'altro i programmi delle stagioni estive, in particolare quella organizzata dall'Inda Siracusa, che si è già avviata con un nuovo programma il 10 e vedrà venerdì prossimo Lunetta Savino, protagonista del monologo da Medea Medea, tratto da Euripide, con le musiche composte ed eseguite da Rita Marcutulli e la regia di Fabrizio Arcuri. Potremo così mantenere il contatto, grazie a questi e agli altri spettacoli che seguiranno fino al 30 agosto, col Teatro Greco di Siracusa, massima espressione di quella civiltà di cui ci parla un filosofo americano, Simon Critchley, docente alla New School for Social Research di New York, nel libro A lezione dagli antichi, comprendere il mondo in cui viviamo attraverso la tragedia greca, pubblicato da Mondadori, 322 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Luca Vanni. Qui abbiamo dunque un filosofo, non uno storico della letteratura, uno storico dell'arte, che ci aiuta ad addentrarci nel significato profondo del teatro greco e in particolare della tragedia. Critchley ci invita a una sorta di corpo a corpo con l'antichità, perché spiega ogni generazione deve reinventare i classici, deve assumersi la responsabilità di impegnarsi in questa reinvenzione. Perciò dobbiamo alimentare gli antichi con il nostro sangue, come recita il titolo di uno dei capitoli iniziali. E il teatro greco ci offre molto su cui riflettere e da leggere con gli occhi di oggi. Per esempio scrive l'autore che se prendessimo sul serio la forma di pensiero che troviamo nella tragedia, con l'esperienza della capacità di agire parziale, dell'autonomia limitata, del sentire profondo e traumatico, del conflitto radicale, della confusione di genere, della complessità politica e dell'ambiguità morale che essa ci offre. E l'autore continua anche mettendo in luce un altro aspetto significativo, e cioè che le 31 tragedie greche giunte fino a noi, scrive, non si stancano di rappresentare non una disgrazia al di fuori del nostro controllo, bensì il nostro colludere, evidentemente inconsapevole, con la calamità che ci colpisce. E il ragionamento di Critchley conclude con questa immagine secondo la quale noi stessi cospiriamo con il nostro fato per rovesciarci in capo il nostro destino. Il fato ha bisogno della nostra libertà. E il ragionamento del filosofo diventa dunque un'analisi condotta attraverso soprattutto le figure di Gorgia, di Platone e di Aristotele, che ci fa capire il senso autentico della tragedia, che così l'autore riassume. La tragedia non è mai pura affermazione o pura negazione, e nemmeno puro ottimismo o puro pessimismo. Non è possibile definirla con queste sterili opposizioni, attribuendole il segno più o il segno meno. La tragedia è piuttosto una specie di archivio teatrale, forse un teatro della memoria, che è condiviso per il nostro essere pubblico e privato nell'inscindibilità di pubblico e privato, nella loro stratificazione, nel loro intrico e nei loro intrighi. La tragedia ci offre una genealogia della nostra identità, un racconto delle nostre origini e di come la maledizione del passato possa, senza che ce ne avvediamo, concretizzarsi nel presente, mentre noi non solo non la rileviamo, ma quando ci viene spiegato che cos'è, montiamo in collera. Ma la tragedia fornisce anche la chiave per sfuggire alla maledizione? Credo di no. Forse, però, ci permette di riconoscere la maledizione per quello che è, portandoci all'istante dello spettacolare accecamento di Edipo. In quell'istante, la vergogna ci opprime il ciglio, non quello di Edipo, ma proprio il nostro. E i miti che incontriamo spesso messi in scena nelle tragedie greche ci vengono presentati dalla grecista Maria Grazia Ciani nel libro Le porte del mito, il mondo greco come un romanzo. È pubblicato da Marsilio, 138 pagine, 15 euro. Questo è un breve libro fatto di flash, come dice l'autrice, di intuizione, forse errate, ipotesi, qualche viaggio nel tempo. Una sorta di sintesi di una lunga riflessione che l'autrice ha fatto sui classici negli ultimi anni. Si parte proprio dal soggetto di una tragedia di Eschilo, i Sette contro Tebe, con una riflessione che fa della settima porta di Tebe, quella di quel signore Apollo, una porta fantomatica che ci può aiutare a varcare, scrive, perpetuamente in stato di assedio. E poi tante altre riflessioni sulla lingua greca, sul fascino delle sue parole, per esempio certe espressioni omeriche, sul gusto descrittivo e catalogativo di tanti brani della letteratura greca, un gusto che domina in particolare e condiziona le vicende dell'Iliade e dell'Odissea, e poi alcune considerazioni sulle vicende di Odisseo, al quale è dedicata la parte centrale del libro, su Arianna e appunto sulla tragedia, la cui evoluzione Ciani sintetizza in poche efficacissime righe. Il linguaggio trae le sue origini dalla ricchissima riserva dei poemi omerici, prendendo lo slancio con la genialità aggressiva di Eschilo, uniformandosi nella più pacata e composta severità di Sofocle, per diluire la sua forza attraente, quella disperata lotta dell'uomo contro Dio, nell'ambiguità sofisticata di un Euripide che mescola a volte dialoghi sciatti e monologhi noiosamente didattici a impennate sublimi di inesorabile e crudele bellezza. Una presentazione ironica e disinvolta dei miti greci è quella di un insegnante francese, Charles Pépin, che col disegnatore Jules pubblica, il titolo farà forse inorridire i grecisti, 50 sfumature di greco, enciclopedia dei miti e delle mitologie, è pubblicato dalle edizioni Clichy, 86 pagine, 17 euro, tradotto da Tommaso Gurrieri. Dagli amori di Zeus al cavallo di Troia, un'ironica ma non banale presentazione della mitologia greca, capace di parlarci ancora da vicino, anche per l'influenza che essa continua a esercitare su tanti scrittori, per esempio Sisifo su Camus, e sulla sensibilità contemporanea, per esempio Teseo, che rappresenta il trionfo della ragione, ossia la capacità di liberarsi degli affetti inutili, o Dioniso, che diventa simbolo dell'altro, quell'altro nel quale le civiltà deboli vedono soltanto una minaccia e che in Grecia invece hanno accolto, Prometeo, che fa scoprire all'uomo, scrive l'autore, la gioia del fare, le donne, l'alterità, il piacere di fare l'amore. Allarghiamo le prospettive che ci offrono le civiltà antiche con Silvia Stucchi, studiosa di filologia e letteratura latina all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e autrice di Come il latino ci salva la vita, pubblicato da Edizioni Ares, 310 pagine, 14,80 euro. Dal latino nelle scuole si cerca di fuggire sempre più spesso, nota sconsolata l'autrice, eppure c'è un ritorno di fiamme e di interesse nei confronti dei classici e si moltiplicano i libri che hanno spesso molto successo per riaccostarci o accostarci al latino, di alcuni di questi abbiamo anche parlato in questa trasmissione. E allora perché non studiarlo, si chiede l'autrice, partendo dalla considerazione che il latino insegna il primato della parola. E qui, per dimostrarlo, Stucchi fa riferimento al film di Matteo Rovere, Il primo re, che parla di Romolo e Remo con dialoghi in latino di cui adesso sentiamo qualche battuta. Imperium pauper resistit, Peter. Quanto è se ne dicons? Ego me, Criceso. Voi non vedete. Stucchi ci fa accostare al latino partendo da situazioni quotidiane che danno lo spunto per rivisitare molti aspetti della vita a Roma. Si parla per esempio di scuola, scopriamo che anche nell'antichità i genitori erano molto petulanti nei confronti dei maestri dei loro figli. Si parla di un tema di grande attualità in questi giorni, in queste settimane, le vacanze. E qui Plinio, per esempio, è un modello delle cosiddette vacanze intelligenti, mentre Seneca descrive inorridito i vizi delle vacanze di massa e parla di gente ubriaca che vaga sul litorale, che gozzoviglia sulle navi, di rumore assordante delle orchestre. Un altro tema molto popolare e attuale, l'ambiente, la cui modificazione da parte dell'uomo già a Roma era denunciata con preoccupazione. Per esempio Orazio era un forte antipatizzante dell'incessante sviluppo edilizio della città. E poi ancora si parla di ricerca, di estetica, di amore, di passione, di denaro, di ansia, di vecchiaia, di amicizia, di diete, di politica, quest'ultima vista soprattutto attraverso le traversie di Cicerone. E conclude il libro una novella di Guy de Maupassant, La questione del latino. Un ulteriore allargamento delle riflessioni sui classici ce lo consente lo scrittore Alessandro Rivali, che conversa col poeta Giampiero Neri in Ritorno ai classici, pubblicato anche questo da Ares, 160 pagine, 14,90 euro. rivali e spiega di aver scoperto da bambino il gusto della lettura grazie alla scoperta di un grande classico, Emilio Salgari, una passione rafforzatasi poi negli anni del liceo quando matura la convinzione che i classici non salveranno il mondo, ma, come scrive, possono migliorarci, predisponendoci magari all'ascolto dell'altro. I classici per rivali sono flaconi di bellezza che forse possono attenuare il male. Poi avviene l'incontro con Neri, definito il decano e maestro nascosto, ma ora non più, della nostra poesia, che ci viene acutamente presentato. E proprio con Neri si avvia questa conversazione sui classici, che considera in particolare Omero, di cui Neri apprezza il realismo, la capacità di scrivere in modo vero e vitale, e la pietà. Poi si passa alle scritture sacre, alla letteratura spirituale. Qui incontreremo Dante, per esempio, che a Neri appare come uno scultore, non un pittore, perché le sue parole sono scolpite, e che gli risulta umanissimo anche per il suo desiderio di giustizia, quasi di vendetta. Poi ancora un capitolo dedicato a una manciata di grandi, da Machiavelli, definito un genio romano che conosce gli uomini veri, non quelli di plastica, a Shakespeare, Cervantes, ma anche Parini, Manzoni, Leopardi, Alfieri, Melville, il cui Moby Dick è un poema sacro nutrito della Bibbia, e poi tanti moderni, fino a Boris Pasternak. E adesso ci troviamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. La città che cercò di sintetizzare i tratti e il ruolo delle civiltà greca e romana fu Costantinopoli, della cui storia Marina Montesano, storica all'Università di Messina, ci racconta una pagina drammatica e decisiva in Dio lo volle, 1204, la vera caduta di Costantinopoli, pubblicata da Salerno, 186 pagine, 16 euro. Costantinopoli fu conquistata definitivamente dai musulmani nel 1453, facendo cadere l'impero romano d'Oriente. Ma già nel 1204 essa aveva subito l'assedio e l'occupazione da parte dei cristiani, un episodio che è rimasto leggendario anche per la crudeltà che gli assalitori, principalmente veneziani e francesi, dimostrarono e di cui naturalmente è rimasta loro attribuita la responsabilità. Ma come andarono veramente le cose? Soprattutto perché la quarta crociata, che era partita da Venezia nel 1202 per iniziativa del Papa Innocenzo III, anziché liberare Gerusalemme come era negli intendimenti, attaccò una capitale cristiana come Costantinopoli? Risponde Montesano con questo libro, che affronta alcune interpretazioni date finora per scontate e che meritano di essere rimesse in discussione. L'autrice riprende tra l'altro la cronaca di uno dei protagonisti di quell'evento, Goffredo di Villardin, che spiega tutti gli eventi che quasi casualmente portarono a quell'esito drammatico, che del resto era stato già preso in considerazione nei piani, per esempio, del re francese Luigi VII di Federico Barbarossa. Protagonista dell'impresa furono leader di grande polso, il doge di Venezia Enrico Dandolo, il capo dei pellegrini crociati Bonifacio di Monferrato, il papa naturalmente Innocenzo III. E proprio il ruolo della città come erede della tradizione romana imperiale fece da detonatore a uno scontro con un'Europa ormai forte, ricca, autorevole, di cui una delle protagoniste era Venezia. Insomma, conclude l'autrice, la presa di Costantinopoli non fu un caso fortuito, ma si inserì in un disegno voluto e perseguito, perciò non fu nemmeno una prima espressione di quello che poi avremmo chiamato scontro di civiltà. Fu una scelta espressiva di uno spirito aggressivo contro l'esterno e l'interno del mondo cristiano. E nel suo libro Montesano accenna naturalmente ai precedenti, a partire dalla prima crociata, quella che si svolse tra il 1096 e il 1099, di cui era stato uno dei protagonisti Goffredo di Buglione, al quale anzi venne poi affidata Gerusalemme una volta conquistata. E di questo personaggio ci parla Sergio Ferdinandi, archeologo medievista nonché dirigente del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione, in Goffredo di Buglione, il Cavaliere Perfetto, 200 pagine, 16 euro, pubblicato da Grafe. Il personaggio, discendente da Carlo Magno e vissuto tra il 1060 e il 1100, è presentato da Ferdinandi come uno dei protagonisti assoluti della storia medievale tanto che diventò l'Advocatus Sancti Sepulcri, come sarebbe stato ricordato. In realtà gli sarebbe spettato il titolo di re, che effettivamente gli fu attribuito, ma la cui investitura, chiamiamola così, non venne formalmente perfezionata. La ricostruzione della figura di Goffredo di Buglione è dunque l'occasione per rivivere un periodo straordinariamente importante in cui si comincia a configurare un nuovo equilibrio dell'Europa. Si parla qui naturalmente a lungo della crociata, della nascita dei primi principati crociati nel Levante, del ruolo di Goffredo nell'assedio che ebbe luogo tra il giugno e il luglio del 1099 di Gerusalemme e la successiva conquista. Dopo la morte, la figura di Goffredo diventò leggendaria e protagonista di tanti cicli di chanson attraverso i quali, diremmo oggi, si formava l'opinione pubblica, così da diventare popolarissimo nell'immaginario collettivo. E anche l'autore preme mettere in luce come Goffredo sia stato non soltanto un valoroso combattente, ma anche un politico molto più abile di come lo si sia descritto, soprattutto nel difendere i propri possedimenti in Bassa Lotaringia, per i quali si era scontrato anche con la zia, la potente Matilde di Canossa. E anche per questo Dante lo collocò in paradiso, mentre Tasso lo evoca in apertura della sua Gerusalemme liberata. Il mito classico come elemento fondante dell'identità e dell'immagine dell'Italia è uno degli aspetti affrontati dal libro curato da Giovanni Belardelli, storico delle dottrine politiche all'Università di Perugia, L'Italia immaginata, iconografia di una nazione, pubblicata da Marsilio, 22 euro, con saggi di Francesco Mercattili, Nicoletta Bazzano, Cristina Galassi, Erminia Erace, Nicoletta Stradaioli, Andrea Possieri, Fausto Proietti, Claudia Mantovani, Alessandro Campi, Loreto Di Nucci, Cristina Baldassini, Eugenio Capozzi e Marco Damiani. Con che faccia si rappresenta l'Italia? E tanto per cominciare, perché anche l'Italia, come del resto tutte le altre nazioni, si rappresenta in forma femminile? Questa è una tradizione che risale addirittura alle città greche, che diventa poi quasi il simbolo di un rapporto sponsale tra il signore e il suo dominio. L'Italia continua quella tradizione alla quale associa un particolare modello femminile, quello di Atena Minerva. E il libro conduce, appunto, nei vari saggi i cui autori ho citato, un'indagine cronologica sul come sia cambiata e sia evoluta l'immagine dell'Italia in più di 2000 anni, corredandola anche con una ricca documentazione di immagini. Naturalmente l'immagine femminile assume vari aspetti e sembianti, ora marziale, ora dolente, ora materna, che ci presentano gli studiosi partendo dalle immagine che è arrivata fino a noi immortalata in francobolli e banconote, ossia l'Italia turrita, che, ci spiega Francesco Mercattili, è un simbolo che arriva da Babilonia e dagli Assiri per essere poi adottata insistentemente sotto Traiano, quando, scrive l'autore, l'Italia venne ritratta anche con la corona turrita a indicare allusivamente le mura di quelle città italiche, poco meno di 50, che beneficiarono del programma alimentare traianeo. E così l'Italia appare in un richiamo dell'arco di Traiano a Benevento. Il libro naturalmente arriva fino all'oggi e Marco Damiani, per esempio, nell'ultimo capitolo ci illustra l'interpretazione dell'Italia che ne hanno dato tre grandi disegnatori satirici: Forattini, Giannelli e Vauro. Abbiamo parlato di storia e allora un libro su un evento di 100 anni fa, circa poco più di 100 anni fa, che avrebbe avuto un esito importante sulla storia d'Italia. Mi riferisco alle conclusioni della conferenza di Parigi che regolò, come ricorderete, la situazione creatasi con la fine della Prima Guerra Mondiale e che fu seguito nel settembre del 1919 da un altro trattato firmato a Saint-Germain-en-Laye che regolò la fine dell'impero austriaco e lo status della Repubblica Austriaca. Ne parla lo storico Paolo Soave dell'Università di Bologna in Una vittoria mutilata, l'Italia, la conferenza di pace di Parigi, pubblicato da Rubbettino, 158 pagine, 14 euro. Già nell'ottobre del 1918 Gabriele D'Annunzio aveva lanciato lo slogan della vittoria mutilata, ossia di un'Italia che rischiava di uscire mortificata dalla conferenza in corso a Parigi. Come si comportò e come uscì in realtà l'Italia da quel trattato, alla quale pensava e sperava il nostro paese di poter essere riconosciuto con lo status di grande potenza? Errori se ne fecero, certamente, sia da parte italiana sia da parte degli alleati, che secondo l'autore non ritennero di dover responsabilizzare il Regno d'Italia nel mantenimento dei nuovi assetti regionali definiti dai trattati di pace, e la cosiddetta vittoria mutilata, cui D'Annunzio avrebbe risposto con l'impresa di Fiume, avrebbe fatto maturare le premesse del fascismo. Soave descrive le linee della politica estera dell'Italia liberale, illustra gli sviluppi della conferenza di Parigi, difficili rapporti con il presidente americano Wilson, spiega l'ordine delle priorità italiane, il contributo di Vittorio Emanuele Orlando alla fondazione della Società delle Nazioni voluta fortemente da Washington, e l'isolamento finale nel quale Roma si troverà, per esempio a proposito delle durissime condizioni imposte alla Germania dalle altre potenze, una posizione quest'ultima che venne molto criticata anche da Keynes. Ma la vera rottura fu proprio sulla questione adriatica, anche per l'appoggio che Wilson intendeva dare alla Jugoslavia, e le divisioni italiane fecero il resto, come spiegano queste righe. Fu un confronto fra vecchia e nuova diplomazia, fra realismo e idealismo, fra due uomini distanti per cultura politica ma dal medesimo temperamento. Se Wilson considerava il ministro degli esteri italiano alla stregua di un vecchio imperialista, Sonnino da parte sua trovava il presidente americano impreparato, in particolare sui Balcani. Gli alleati, certo culturalmente assai più vicini agli italiani che a Wilson, rincararono la dose, ammonendo che non si poteva rompere un'alleanza per egoismo e che le conseguenze sarebbero ricadute soprattutto sull'Italia. Questo impari scontro mise alla prova la tenuta dell'eterogenea delegazione italiana. Sonnino dette in escandescenze. Salandra osservò che non restava ormai che chiedere l'esecuzione notarile del patto di Londra per lasciare che fossero poi Giolitti e Bissolati a firmare il trattato di pace imposto dagli alleati. Abbiamo parlato di un episodio che mise a dura prova la diplomazia italiana, e vi segnalo allora il titolo di un diplomatico italiano, Guido Lenzi, che è stato anche direttore dell'Istituto Europeo di Studi Strategici di Parigi ed è docente all'Università di Bologna, autore di La diplomazia ieri, oggi e domani, pubblicato da Rubbettino, 290 due pagine, 12 euro. È un libro questo utile, che spiega il ruolo fondamentale e sempre più importante svolto dalla diplomazia, tanto più delicato quanto più complessi si sono fatti i rapporti internazionali, con la fine dell'illusione della diffusione planetaria del liberalismo internazionale. E proprio in questa fase, scrive Lenzi, c'è bisogno della diplomazia. Nell'odierno mondo dilatato, l'Occidente, che per secoli della storia è stato l'artefice, procede a tentoni alla ricerca di solidarietà che tardano a manifestarsi, lasciando il campo libero a reazioni estemporanee quando non a comportamenti apertamente antagonistici. All'Occidente, continua quindi l'autore, spetta perciò il compito di proporre le ragioni e l'utilità del sistema internazionale che ha costruito e che le circostanze parrebbero continuare a richiedere. Come in tutti i momenti di transizione, è principalmente alle arti diplomatiche che spetterebbe il compito di dipanarne le componenti, decifrarne il senso e la direzione. E allora Lenzi spiega cosa fa il diplomatico, come si sia evoluta la sua professione a partire dall'antichità. Risentiremo parlare di Roma e di Costantinopoli, poi ci parla delle caratteristiche, delle funzioni, delle strutture della diplomazia, e affronta anche alcuni aspetti apparentemente frivoli ma connaturati alla professione del diplomatico, come l'importanza delle relazioni sociali, di cui queste righe ci spiegano appunto il significato. Gli appuntamenti mondani, tanto caricaturati, sono una necessaria corvée, una componente essenziale dell'attività del rappresentante diplomatico. Scrivendo all'amico Vettori, anche Machiavelli sosteneva che un ambasciatore, essendo obbligato a infinite contenenze, è necessario abbia dei diporti e degli spassi. Una raccomandazione temperata da Richelieu, per il quale le cene sono spesso una perdita di tempo, e da Claudel, che diceva: chi mi invita mi onora, ma chi non mi invita mi fa un favore. Aggiungendo che, arrivando a un ricevimento, la prima cosa da fare è assicurarsi la via di fuga. Adattata ai tempi, va semmai una più appropriata coniugazione fra l'esigenza di esprimere le proprie opinioni e la ricerca delle migliori occasioni e modalità per farlo. E poi il libro prosegue con una parte di grande sostanza, quella sulle regole, oggi messe spesso in crisi e di cui sentiamo un sempre maggiore bisogno, per concludere con un esame dei vari protagonisti, tra i quali naturalmente l'Italia, e una disamina degli interessi oggi in gioco. E a questo punto... Il confettino. Un grande artefice della conoscenza pacifica tra mondi diversi fu Marco Polo, di cui ci parla lo scrittore ceco Patrick Oriašek in Marco Polo, viaggio nella terra del dragone, tradotto da Fides Modesto e illustrato da Han, pubblicato da Yakabook, 28 pagine, 18 euro, in cui il veneziano riassume a rustichello le sue avventure che le illustrazioni trasformano in un grande spettacolo pop. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con SuperSite, su aruba.it.